Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi il nostro passaporto radiofonico valido per l'espatrio si concentra su un settore professionale che sta letteralmente esplodendo a livello globale, quello dei data scientist, scienziati dei dati sempre più richiesti da multinazionali, startup e fintech per analizzare ed elaborare grandi quantità di informazioni necessarie a monitorare i repentini cambiamenti di mercato. Con noi un giovane professionista che ha colto un'occasione di lavoro in Germania. Insieme a lui vi daremo come sempre consigli utili e preziosissimi. La collega del Sole 24 Ore Francesca Barbieri ci offrirà come ogni mese la sua dose di informazioni su come cogliere opportunità di bandi per studio e lavoro all'estero, mentre nella seconda parte del programma sarà Eures Italia a fornirci tutte le coordinate necessarie per trovare il vostro nuovo lavoro in Europa. E a chiudere, siamo al primo sabato del mese, non dimenticatelo, i consigli di Mario Gastaldi su dove andare a portare il vostro progetto di impresa nel mondo. Oggi tappa in un territorio d'oltremare britannico con affaccio sul Mediterraneo. Allora, è tutto pronto per levare gli ormeggi verso Berlino, capitale non solo della Germania ma anche del mondo startup europeo. Generazione Mobile. Prima però lo spunto della settimana che arriva dall'ultimo rapporto italiani all'estero di Migrantes, pubblicato pochi giorni fa. Sono 5 milioni e mezzo i connazionali oltre confine iscritti all'anagrafe residenti estero. Nel 2006 erano 3,1 milioni con una crescita in 15 anni del 76%. Si tratta di una collettività che si sta ringiovanendo grazie alle nascite oltre confine e alla nuova mobilità costituita dai giovani che si spostano per motivi di lavoro. Nel 2019 hanno lasciato l'Italia ufficialmente 131.000 cittadini verso 186 destinazioni nel mondo. Secondo il Premier Conte è nostro dovere costruire le condizioni per garantire ai giovani connazionali all'estero la possibilità di tornare in Italia nel breve periodo. Dobbiamo offrire incentivi per rientrare. Il governo sta lavorando in questo senso per aggregare i migliori talenti sollecitando la collaborazione per il rilancio delle imprese nazionali. Così Conte. E dal rapporto Migrantes ci spostiamo ora a Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utili a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale. Tornano i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri. Siamo nel pieno della seconda ondata della pandemia del coronavirus. Di fronte a molti paesi che mettono nuovi lockdown e restrizioni, con le università che privilegiano sempre di più la didattica a distanza, che cosa accade agli studenti italiani nel programma Erasmus? Dall'Università di Milano Bicocca arriva un utile vademecum con domande e risposte per i tanti ragazzi interessati. Partiamo dal fatto che le partenze pianificate per il primo semestre sono state effettuate un po' da tutti gli atenei italiani, non prima di aver verificato le misure attuate per affrontare la situazione sanitaria presso le università di destinazione. Gli studenti italiani all'estero sono aggiornati di tutte le novità sul tema Erasmus tramite webinar e appuntamenti virtuali con i referenti del programma della propria università italiana. In questa fase le modalità per partecipare al programma Erasmus sono sostanzialmente due. Distance learning, lo studente resta in Italia ma svolge le lezioni e gli esami online. Blended learning, lo studente svolge una parte all'estero e una a casa propria in e-learning. Per sostenere gli studenti che hanno deciso di effettuare l'esperienza Erasmus in distance learning, alcuni atenei hanno previsto un supporto finanziario, che nel caso dell'Università di Milano Bicocca è di 500 euro. Ma vediamo quali sono le risposte ad alcune domande chiave. Se un ragazzo ha intenzione di rinunciare all'Erasmus, deve pagare interessi di mora? La risposta è negativa. Gli studenti che intendono rinunciare devono compilare un apposito questionario che si trova generalmente nella sezione online del sito di Ateneo riservata alla segreteria. Fino a quando è possibile presentare rinuncia al programma Erasmus? È possibile fare rinuncia durante tutto l'anno accademico. Il consiglio quindi è quello di non affrettarsi a presentare la domanda di rinuncia, attendendo gli sviluppi della situazione. È possibile contattare la sede estera per avere informazioni sulla propria mobilità? Non vanno contattati gli atenei esteri fino a quando non si sarà certi che la propria candidatura è stata accettata. Successivamente alla nomina è possibile scrivere all'ateneo estero solo per urgenze e se non si trovano le indicazioni sul sito internet. Gli atenei comunicheranno le modalità e i tempi dello svolgimento del programma, appena possibile ovviamente, sia all'ufficio mobilità dell'Ateneo Italiano sia direttamente allo studente. Sarà possibile sostenere gli esami nella propria università italiana anche durante l'Erasmus? Data la particolare situazione in cui ci si trova, la maggior parte delle università permetteranno ai ragazzi sia di seguire i corsi nel proprio Ateneo Italiano, sia di sostenere gli esami di profitto. Gli atenei esteri sono obbligati a organizzare forme di distance o blended learning? La Commissione europea caldeggia la creazione di forme di blended learning che verranno confermate anche negli anni accademici futuri. Per l'anno 2020-2021 ci sono quindi diverse modalità organizzative. Alcune università hanno stabilito il distance learning per tutto l'anno accademico, altre invece hanno adottato modelli blended, quindi con lezioni in presenza e lezioni a distanza. Altre ancora hanno deciso di sospendere l'Erasmus per il primo semestre, spostando gli studenti sul secondo semestre, riducendo anche eventualmente il numero oppure la durata della mobilità. È possibile ridurre il mio periodo Erasmus, si chiedono molti studenti, e rifare un altro bando di mobilità? Quello che le università consigliano ai ragazzi è di fare bene i conti con il numero di mesi di Erasmus a disposizione. Quindi è possibile utilizzare le 12 mensilità su più anni accademici e poi candidarsi sia al bando Erasmus Studio sia a quello dedicato alle esperienze di stage, purché la somma di tutti i vari periodi di mobilità non sia superiore al limite massimo disponibile. Il testimone della settimana è un data scientist 29enne attualmente al lavoro a Berlino, sul palcoscenico principale dunque del mondo startup fintech tedesco. Giorgio oggi vi porterà in un viaggio esclusivo all'interno delle imprese innovative europee, fornendovi importanti consigli su come avviare una carriera internazionale nel settore della scienza dei dati. Buon pomeriggio, Giorgio Klauser. Buon pomeriggio a tutti. Laurea triennale in matematica, laurea magistrale in statistica a Milano, trascorre un periodo in Erasmus a Ghent, in Belgio, durante l'università. Quanto si rivelerà importante quel periodo, sia come esperienza formativa oltre confine, sia soprattutto per lo sviluppo dei tuoi interessi? È stato sicuramente un periodo fondamentale. Ho fatto il primo corso di Big Data, ho conosciuto il linguaggio di sviluppo Python e mi sono avvicinato così all'ambito Data Science. Inoltre posso dire che ai primissimi colloqui di lavoro, la vera esperienza di studio all'estero è il primo spartiacque. Dopo la laurea, due esperienze lavorative in Italia. In brevissimo, di cosa ti sei occupato? Mi sono occupato di consulenza. Prima un'esperienza più legata alla consulenza informatica, dove svolgevo attività di sviluppo software, poi un'esperienza veramente nel mondo degli advanced analytics, dove svolgevo consulenza in ambito data science e artificial intelligence. Nel gennaio di quest'anno, infine, ti sei trasferito a Berlino. Perché? Voglia di fare un'esperienza all'estero oppure un'offerta di lavoro irrinunciabile? Allora, onestamente ci sono state tutte e due le componenti. L'esperienza di lavoro all'estero è sempre stato uno dei miei obiettivi di crescita personale e lavorativa. E nel mio caso è stato abbinato anche alla classica offerta che non si può rifiutare. Attualmente di cosa ti occupi in Germania? Attualmente sono Senior Data Scientist presso N26, che è una banca digitale leader, diciamo, nel settore, e seguo principalmente attività in ambito financial crime prevention. Nell'email che hai inviato a Generazione Mobile, chiocciolaradio24.it, hai spiegato molto bene il lavoro del data scientist. Allora, in pochi concetti, ci riassumi cosa fai esattamente? Certo, allora il compito del data scientist è quello di generare valore per la sua azienda tramite i dati, che possono essere big, i famosi big data, ma anche small, dataset normali, tabelle. E diciamo ci sono quattro principali responsabilità. L'analisi dei dati storici, quindi capire che cosa è successo nel passato e essere in grado di spiegarlo. La costruzione di modelli predittivi, quindi prevedere cosa succederà in futuro in modo da supportare o addirittura sostituire l'essere umano nei processi decisionali. Comunicare questi risultati con la generazione di grafici, di report, E infine la scrittura di codice. Tutte queste cose si realizzano tramite codice, strumenti informatici che il data scientist deve sapere padroneggiare. Arriviamo ai tuoi consigli per trovare lavoro come data scientist, magari all'estero. Innanzitutto, quale formazione di base avere? L'educazione del data scientist può essere tra le più varie. Ovviamente un profilo scientifico è raccomandabile. Ci sono facoltà come matematica, fisica e ingegneria che sono molto apprezzate. Recentemente c'è anche la laurea in data science, che ovviamente cosa può esserci di meglio. Ma non è limitante, ho tanti colleghi molto forti con un background in business o in materie davvero diciamo estranee all'ambito scientifico, come ad esempio sociologia. Come prepararsi a un colloquio? Allora, per un colloquio in ambito data science bisogna preparare tre cose dal mio punto di vista. Innanzitutto i principali concetti di statistica e di modellistica propri del nostro settore. Bisogna poi essere pronti ad affrontare un case study, quindi un esercizio di analisi dati e sviluppo di modello, che di solito viene richiesto di essere consegnato nella settimana seguente al colloquio e occorre saper dimostrare le proprie abilità diciamo sul campo. Ed infine una batteria di domande che andremo noi a fare all'intervistatore per capire meglio in quale azienda andiamo a collocarci e qual è l'interpretazione della figura del data scientist che il nostro potenziale datore di lavoro ha in mente. Un piccolo passo indietro, cercare lavoro all'estero. Ci sono siti web o community online che consigli di seguire o consultare? Guarda, nella mia esperienza consiglio di utilizzare LinkedIn, il social network del mondo del lavoro. Probabilmente lo conosciamo tutti, per me ha funzionato benissimo. Il mondo fintech, Giorgio, quali opportunità professionali offre sia ai data scientist sia anche ad altre professionalità? Allora, nel mondo fintech, sinceramente la professionalità più apprezzata, meglio retribuita, è quella del software engineer. Dopodiché c'è spazio sicuramente per product manager e designer, che sono molto molto ricercati, e ovviamente per le figure in ambito dati, quindi data engineer, data scientist e data analyst. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Giorgio Clauser, data scientist 29enne, che dopo due esperienze di lavoro in Italia, pochi mesi fa ha preparato i bagagli ed è partito verso Berlino per inaugurare una nuova sfida professionale all'estero. Insieme a Giorgio stiamo tracciando un quadro delle opportunità per data scientist, ma non solo, nel settore startup e fintech della vibrante capitale tedesca. Come sempre, tante indicazioni utili per voi da cogliere al volo. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Altri consigli, stavolta di vita pratica a Berlino, partendo dalla ricerca di una casa, come trovarla? Ci sono siti interessanti o meglio il passaparola? Allora, il sito di riferimento si chiama Immobile Scout 24. Ed è il classico portale di ricerca case che c'è in tutti gli stati, diciamo, cioè sia l'app per il telefonino sia proprio il sito internet. Poi in tanti casi è il passaparola quello che funziona più di tutti. Ci raggiunge ora in linea Aldo Razzino, Managing Director della società di headhunting londinese Open Search Network. Buon pomeriggio Aldo e ben ritrovato. Buon pomeriggio Sergio, grazie mille. Con te torniamo a parlare del mondo professionale STEM a livello internazionale. Sei già stato ospite in passato di una puntata di Toolbox, la nostra rubrica di consigli pratici. Prima un veloce inquadramento, di cosa parliamo in sintesi quando parliamo di profili STEM? Parliamo di profili che hanno una laurea in ambito Science, Technology, Engineering e Mathematics e che quindi hanno una laurea in ambito scientifico-tecnologico di base. Queste sono le caratteristiche principali. E quale formazione avere o conseguire per lavorare in questo settore anche nell'ottica di una proiezione internazionale? Sicuramente bisogna avere un'esperienza forte nell'analisi e nella gestione del dato, bisogna capire e studiare tutte le competenze, tutte le soluzioni software indicate anche precedentemente, avere una forte competenza di analitica e di ascolto. Il primo problema dei profili STEM che dovranno affrontare è quello di fare la domanda giusta e capire qual è il problema che devono andare ad affrontare. Come cercare opportunità, Aldo? Non ci sono infatti solo offerte di lavoro, ma anche conferenze internazionali o anche hackathons. Spiegaci meglio. In ambito STEM possono rientrare anche profili che di solito non vengono considerati come degli STEM e per loro entrare in contatto con le aziende può essere difficile perché le aziende utilizzano degli schemi di recruitment abbastanza rigidi. Quindi partecipare a delle conferenze, partecipare a degli hackathon, delle gare organizzate da aziende private, gli permette di mettere in mostra le proprie competenze analitiche e da lì poi entrare in contatto con le società. Sicuramente il mondo STEM è un mondo di nicchia, quindi viaggia tanto anche a livello di meetup e convegni locali. Ti chiedo un ultimo consiglio, Aldo, mirato in particolare ai data scientist come Giorgio alla ricerca di lavoro all'estero, a quali paesi guardare in particolare? Beh, sicuramente i paesi del nord Europa, l'Inghilterra, la Germania e sicuramente anche la Svizzera. C'è una forte tendenza a creare dei team di dati nelle singole country da parte delle grosse multinational, quindi credo che in futuro in tutte le country a livello europeo ci saranno opportunità per i data scientist. Grazie ad Aldo Razzino e buon lavoro. E la domanda di rito per Giorgio Klauser: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Allora, in realtà ne ho quattro. I primi due sono legati all'attualità, al coronavirus. Tenere presente che il mondo del trasporto aereo non è più quello di un annetto fa, quindi non aspettatevi di poter viaggiare facilmente tra l'Italia e il paese in cui espatrierete. Questa è una cosa che sto sperimentando sulla mia pelle e sicuramente va tenuta in considerazione prima di prendere una decisione relativa all'espatrio. Inoltre, nel paese in cui andrete, considerate di trovare una sistemazione, una casa con dei coinquilini che vi consentirà di avere una socialità, un aspetto sociale che in questo momento storico è più difficile trovare nella normalità di tutti i giorni. Se pensate poi di trasferirvi in Nord Europa, considerate di trasferirvi in primavera. In questo modo potrete conoscere la città in cui andrete nella bella stagione, con giornate lunghe, luminose, e sarà molto facile innamorarvene. Infine, considerate di studiare in anticipo la lingua del paese in cui andrete a trasferirvi per avere un forte vantaggio anche nella vita di tutti i giorni. Bene, lasciamo la testimonianza di Giorgio Klauser per andare alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo. Sono Maria Megna, la consulente Eures di Regione Lombardia. Oggi vi voglio illustrare le opportunità per la stagione invernale in Austria, nello Stato federale del Vorarlberg, per cuochi, pizzaioli, camerieri e cameriere ai piani. Il Vorarlberg è famoso per le sue località sciistiche e nei numerosi hotel e ristoranti della zona vi sono ben 100 posizioni aperte per cuochi, pizzaioli e cameriere ai piani e 80 per camerieri. Questi i requisiti di base. Per cuochi, da 1 a 2 anni di esperienza, a seconda della mansione, qualifica professionale o diploma alberghiero, buon inglese, tedesco base. Per pizzaioli, da 1 a 2 anni di esperienza e tedesco base e buon inglese. Per i camerieri, da 1 a 2 anni di esperienza a seconda della mansione, tedesco intermedio, inglese base e qualifica professionale o diploma alberghiero. Per le cameriere ai piani, minimo 2 anni di esperienza nella mansione e tedesco base. Il salario varia dai 1.400 ai 1.900 euro netti al mese a seconda della posizione per 8-9 ore al giorno, pagamento di tredicesima e quattordicesima e 2 giorni e mezzo di ferie maturate al mese che possono essere anche monetizzate alla fine del rapporto di lavoro. Il vitto e l'alloggio sono gratuiti, ma non è compreso il pagamento del viaggio di andata e ritorno, ma il datore di lavoro vi supporterà per tutte le pratiche amministrative. Pronti a partire? Allora inviate il vostro curriculum vitae con foto, scritto in inglese o tedesco, alla seguente email: maria_megna, M-E-G-N-A, @regione.lombardia.it entro il 30 novembre. Per tutti i dettagli consultate la sezione Eures News del portale ANPAL. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Prima puntata del mese, l'appuntamento di rito è con Imprenditori Globali, lo spazio di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. E torna con noi Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta a Gibilterra. Sentiamo. Uno dei paesi geograficamente vicino all'Italia, interessanti per gli imprenditori globali italiani, è Gibilterra. Per i cittadini europei e italiani è possibile risiedere a Gibilterra a condizione di poter dimostrare la propria autosufficienza economica. Inoltre esistono 2 categorie speciali di immigrati ai quali viene riconosciuto un trattamento fiscale agevolato. gli High Executive Possessing Specialist Skills, per il riconoscimento di questo status è necessario possedere un alto livello di competenza specialistica e produrre un reddito minimo di almeno 120.000 sterline. Gli HEPPS, chiamati così, pagano imposte solo sulle prime 120.000 sterline. Poi, persona qualificata nella categoria 2. In questo caso l'imposizione fiscale grava solo sulle prime 80.000 sterline di reddito imponibile. I requisiti sono: è necessario avere un alloggio per tutto il periodo di imposta, fornire prova di una ricchezza equivalente a 2 milioni di sterline e non essere stato residente in Gibilterra nei 5 anni precedenti. E vediamo la tassazione personale. Il sistema di tassazione personale è piuttosto articolato e si può scegliere fra due sistemi: sistema basato sulle indennità o sistema basato sul reddito lordo. Vediamo il primo, il sistema basato sulle indennità. La tassazione si effettua direttamente sul reddito, sottraendo le indennità deducibili. Le aliquote stabilite per il 2020 sono così: il 14% sui prime 14.000 sterline e sulle successive 16.000 sterline l'aliquota sale al 17%, il reddito eccedente è tassato al 39%. Esiste poi il sistema basato sul reddito lordo. Se il reddito è inferiore a 25.000 sterline si applicano due aliquote differenti ed in verità il sistema, anche se vantaggioso, è piuttosto complesso. L'aliquota del 6% per la parte di reddito fino a 10.000 sterline si combina con l'aliquota del 20% per la successiva parte di reddito pari a 7.000 sterline. L'eccedenza fino a 25.000 sterline è tassato con un'aliquota del 28%. Per la parte di reddito invece superiore a 25.000 sterline le aliquote partono dal 16% e crescono fino al 25% e poi diminuiscono ancora per gli scaglioni di reddito più alti. I dividendi, importante parte, non sono soggetti a tassazione. E questa è Gibilterra, la roccia a sud della Spagna che offre clima meraviglioso, fiscalità agevolata senza andare via dall'Europa. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet poi resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da regalare? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. E infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.